Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così. Non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà. Quindi, nonostante questa prematura di partita, la mia vita resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato col sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Vi amo tutti, spero farete tesoro di queste parole. Serkeftin, Orso, Tekosher, Lorenzo. Queste sono le parole di Lorenzo Orsetti, nome di battaglia Tekosher Piling, partigiano, nato a Firenze di Rifredi, morto in Siria, partito dal Kurdistan, in una delle ultime battaglie contro lo Stato islamico. Oggi cade un anno dall'anniversario del suo martirio. Shahid Namerin, i martiri non muoiono. I martiri donano la propria vita. E donare la propria vita è altro dal perderla. Oggi, in cui siamo chiusi in casa, costretti lontani le une dagli altri per questa emergenza, è ancora più importante ricordare il messaggio di Lorenzo, ricordarsi per cosa Lorenzo Orsetti ha combattuto. Attraversa cuore e pancia di ogni uomo suo fratello e tutti i solchi per loro stessa natura. Aspetta solo semi e che arrivi un acquazzone. Scuole ce l'han detto da tempo che niente al mondo si distrugge e che niente si crea e che tutto si trasforma, quindi tutto torna, cambia solo forma. Anche il coraggio dei nostri personali eroi. Eval Tekosher, resterai una presenza fortissima. Eval Tekosher, hai scavato un solco profondissimo. Non riesco a stare fermo se penso a quell'inferno, se penso che dici tu fai dentro. Orso, quello che c'hai scritto non mi fa stare zitto, da sulla bocca ad ogni tuo compagno. Orso, tu sei rivoluzione, sei tutte le persone che lottano per chi vedono oppresso. Eval Tekosher, partigiano, lottatore. Eval Tekosher, ammazzavi, ma solo per amore. quella volta a Refredi c'era proprio tanta gente. Quella volta a Refredi la ricorderanno tutti gli uomini. Son fatti di memoria, idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto ed emozioni. E adesso i solchi sono pieni di semi. E adesso i solchi sono pieni di semi. Adesso i solchi sono pieni di semi. I solchi sono pieni di semi. Orso, non riesco a stare fermo se penso a quell'inferno, se penso che ci andavi a capofitto. Orso, quello che c'hai scritto colpisce dritto dritto, sta nella testa ad ogni tuo compagno. Orso, tu sei rivoluzione, sei tutte le persone che lottano per chi vedono oppresso. E volte kosher, la tua è una scelta giustissima. E volte kosher, le tue parole mi fanno sentire minuscolo. E volte kosher, Rojava, hai lasciato il cuore. E volte kosher, sei una goccia di splendore. Se dici che sei morto col sorriso stampato sopra il viso, facciamo che mi fido. E volte kosher, tu sei una cosa bellissima. E con immenso piacere diamo il buonasera a tutti e tutte le ascoltatrici ed ascoltatori in ascolto. Questa è una diretta speciale in occasione del primo anniversario della morte di Orso Lorenzo Orsetti Tekosher. Devo essere sincero, l'emozione è tanta. Io sono Bricobaldo, qui con me Xina. State ascoltando Radio Wombat, una giovane radio fiorentina, per chi non lo sapesse, autogestita, autofinanziata ed autocostruita. Ci state ascoltando sul blog, dal quale già vi do qualche indicazione per poter interagire con noi sulla pagina del blog. Nel primo post che trovate vi è un indirizzo dove potete scriverci praticamente in tempo reale. È quel link http://pad.cisti.org. Usate quello strumento, altrimenti potete scriverci su Facebook oppure alla mail postawombat@insiberia.net. Allora, intanto diamo il buonasera a Xina. Buonasera, ciao a tutte e tutti. Che giornata difficile da portare avanti durante questa emergenza, un momento in cui vorremmo essere tutti vicini, stare tutti insieme e celebrare la vita e il martirio di Lorenzo Orsetti e Orso Tekosher. I contributi che abbiamo ricevuto sono tantissimi, non vogliamo anche togliere tempo alle parole di tutte e tutti, e Ci tengo però a ricordare che in questo giorno è stata lanciata una campagna di raccolta fondi per comprare, per l'acquisto di un ecografo e la trovate per, diciamo, per contribuire, la trovate sia sulla solita pagina della campagna di raccolta fondi istituita dalla famiglia e dagli amici di Lorenzo Orsetti su produzionidalbasso.com. Lorenzo Orso Tecosher per continuare la lotta tutte le indicazioni le trovate sulla pagina Facebook se no di Alessandro Orsetti a cui darei la parola subito e ascoltiamo Alessandro, lo salutiamo tantissimo ci scusiamo anche per i tagli dell'audio che insomma abbiamo montato in regia e Alessandro ti salutiamo tantissimo se ci stai sentendo siamo tutti vicini a te e ti mandiamo un bacio grandissimo. Salve a tutti, sono qui stasera oggi per salutarvi. Oggi, a distanza di un anno dalla morte di Lorenzo, il 18 marzo 2019, sentiamo ancora tanto il dolore per questa morte, però al tempo stesso siamo stati confortati da un anno pieno di interesse, iniziative. Tante persone si sono interessate per la situazione di Lorenzo, per la sua morte e per il Rojava. Avevamo messo in campo anche tante iniziative in questa settimana per ricordarlo. E purtroppo con questa emergenza del coronavirus non è possibile farle più. Le abbiamo spostate e speriamo che presto o tardi riusciamo a realizzarle. Noi siamo molto vicini alla situazione dei curdi e a tutti coloro che lottano. La lotta là in Siria del Nord sta continuando tante persone a morire e stanno morendo per realizzare quello in cui stanno credendo, il confederalismo democratico. Noi siamo al loro fianco. E la loro lotta è la nostra lotta per difendere una realtà invece che parla di democrazia senza Stato e parla di autodeterminazione dei popoli. Noi sappiamo che la lotta che stanno lanciando verso chi vuole un mondo diverso è ancora pesante, difficile. Sappiamo, Eddie ci sta mostrando quello che succede a chi alza la testa e chi si oppone a queste amministrazioni e a questi governi. Sorveglianza speciale data a Eddie è un episodio bruttissimo, ma al tempo stesso è uno dei tanti episodi che il nostro Stato sta mettendo in campo contro chi sta cercando di affermare qualcosa di diverso, una società più giusta, più equa e dove le disuguaglianze siano abolite e la democrazia sia reale. Tutti a mantenere la speranza, a mantenere la voglia di lottare e la fiducia che i risultati si otterranno, perché la lotta è l'unica possibilità, di affermare in questo momento certi valori. Voglio finire leggendo una frase scritta da Lorenzo un brano che è messo nel libro Omaggio a Rojava, in cui parla della sua lotta combattuta a Afrin. Avrei voluto scrivere un finale diverso, uno in cui magari strappavamo il visaggio al nemico senza problemi, ma la realtà non è un bel racconto. In fin dei conti, per questa storia un finale ancora non c'è. Sulle colline di Afrin si resiste e si muore. Ma se la lotta non si spenge, vuol dire che la speranza vive ancora. Eccoci di nuovo in regia. Allora ne approfitto per precisare l'indirizzo al quale dovete scrivere per interagire è http://pad.cisti.org/ p/diretta wombat, lo trovate, ripeto, sulla pagina del blog. Scriveteci, attendiamo le vostre voci, così come sono tante le voci che sono state raccolte per questa diretta speciale, per l'anno dalla morte di Lorenzo Orsetti. Abbiamo sentito il padre, abbiamo sentito Eddie, la compagna torinese, che avremo modo di risentire anche in seguito, ma abbiamo veramente tanti contributi da parte di amici, amiche, compagne, sia di Firenze che compagne di combattimento. Abbiamo le voci della comunità curda e quindi, ripeto, l'emozione è veremente forte. Teniamo la voce. Sì, siamo in difficoltà a condurre questa puntata, siamo arrivati all'ultimo, poi fare regia e diciamo tutto insieme in pochi in questo momento non è facile, ma diciamo continuiamo la traccia pensando come vi diceva Briccobaldo, gli interventi sono tanti, ma la traccia unica sono tutte quelle persone. Qui Lorenzo in un modo o nell'altro, dalla vita di quartiere alla vita rivoluzionaria, ha lasciato intorno a lui e vorrei a questo punto appunto direi mandare una lettera di un amico caro che si presenterà da solo. Ciao a tutte e tutti, prima di tutto volevo dire quanto mi dispiace non poter ricordare il mio amico come si meriterebbe, lo faccio quotidianamente, ma un po' ammetto che non farlo pubblicamente mi rattrista. Non perderò tempo nel parlare della situazione attuale, lo facciamo già, ci sono un sacco di aggiornamenti al riguardo. Sono sicuro che ci sarà occasione in futuro per celebrare Orso, lo faremo a modo. Sono molto contento di essere stato invitato a leggere questo piccolo testo, questo mio pensiero che al tempo, devo dire, mi ha aiutato a affrontare il dolore, a scacciare l'inquietudine, mi ha aiutato a interiorizzare proprio la carica, la tenacia. Credo che il modo migliore per far continuare a vivere Orso sia comunque ricordarlo, raccontarlo in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua personalità, farlo soprattutto conoscere a chi ancora non sa quanto ci abbia donato. Ringrazio i compagni, le compagne di Wombat, un abbraccio forte. Orso, qua piano piano ci rialziamo. Il dolore si trasforma lentamente in determinazione. Le lacrime che abbiamo versato hanno formato un temporale, ben diverso dalla tempesta che auspicavi. Per quella c'è da aspettare ancora un poco. I tuoi amici sono fantastici nonostante tutto. Non mi aspettavo delle reazioni così forti e serene. Sicuramente hanno tutti interiorizzato in pieno cosa ti ha spinto ad esporti tanto. Egoisticamente non vedevo l'ora di incontrarti dopo tutto quello che hai affrontato, pur consapevole di quanto ti avrebbe rattristato tornare qui. Saresti rifuggito da questa fosca dimensione umana, perché ormai hai visto un mondo vero, in cui le emozioni non sono veicolate da economie o sostanze. Quello che avremmo ritrovato non sarebbe di certo stato lo stesso Orso, ma una persona distante da noi pezzettini di merda, rimasti a galleggiare in questo cesso con lo sciacquone rotto. Sei tornato, non come avremmo voluto, ma hai comunque aggiunto vita a tutti, in particolare a quei tuoi fratellini nelle strade, nei quali ho visto una luce che mancava da tempo. Mi ricordo di momenti difficili, ma adesso so che con la forza di volontà si possono asfaltare tutte quelle negatività, rivivendo eternamente solo i momenti più fieri e gioiosi. TVB Orsetto, sei nel mio petto e nella mia testa e combatterò il triplo, tramite la forza che mi hai lasciato in eredità. Grazie. Viva Orso e viva i combattenti, chi combatte contro se stesso e chi combatte contro questo mondo che tanto spesso sembra odiarci. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Avete sentito intanto il contributo di Alessandro Orsetti, che salutiamo e ancora gli porgiamo la nostra vicinanza, a lui come a tutta la famiglia Orsetti, e anche un grande abbraccio, un grande ringraziamento e anche una grande stima, direi, per l'impegno che hanno messo nell'arco di questo anno per portare avanti una lotta. Una lotta che ci vede coinvolti in prima persona. Era il 18 marzo 2019 quando la notizia è rimbalzata, quantomeno qui a Firenze, ma un po' in tutta Italia. E forse siamo stati tra le prime persone a ricevere la notizia. Era un lunedì, eravamo fra l'altro in radio. E quindi abbiamo praticamente commentato all'incirca in tempo reale l'accadimento. E dunque io non so, i nostri pensieri, le nostre emozioni penso che possano anche essere tralasciati quest'oggi, perché insomma siamo di fronte a una persona che si era messa al servizio di tutto il mondo per portare avanti una lotta, per portare avanti una battaglia e per sconfiggere un male. Un'ideologia che lui è andato a combatterla in Siria, ma è un'ideologia che è presente ancora, purtroppo, anche nella società occidentale, anche nella società italiana, anzi forse è proprio qui che trova le sue basi. Xina, te ricordi, immagino, molto bene quel giorno di un anno fa. Sì, come non ricordarmelo. Ricordo con che rapidità ci siamo tutti vestiti e ci siamo affrettati a incontrarci al campino, increduli e provati. Erano giorni, sono stati, insomma, è stata una giornata molto, molto speciale, ma fin da subito, in realtà ancora da prima, vedere come la risposta, la vicinanza, quel ponte che si è creato quando Lorenzo è partito, quando mandava i suoi messaggi vocali per farci sapere della situazione giù in Rojava, gli occhi delle amiche e degli amici che si sono accesi e il giorno della sua morte non erano spenti, erano ancora più accesi di prima, ancora più forti, perché la forza di questo atto vero e proprio rivoluzionario di recarsi in Siria del Nord-Est e portarsi dietro tutta l'abbattimento della nostra società e reinventarsi lì e ritrovare se stessi lì e nella lotta per delle idee, una forza, ecco, che ci ha attraversato tutti. Beh sì, questo io almeno questa è un'interpretazione personale, ma Orso, non lo so, io lo vedo come una, una persona che, almeno per quello che mi hanno raccontato, l'ho conosciuto, non l'ho conosciuto personalmente, ho solo intravisto. E, era una persona che, a detta di tanti, non si trovava a suo agio qua. Faccio una citazione dal fumetto Macelli, un pesce fuor d'acqua. E, un'anima in pena, mi scuso. E quindi questa anima in pena, che poi il luogo giusto e il contesto giusto lo ha trovato nella Siria del Nord, l'ha trovato in una lotta che ha pagato con la vita, e quindi a volte, e quindi per questo mi viene da dire che evidentemente siamo anime in pena, ma siamo anime in pena perché forse qua questo luogo, questo modo di vivere ci rende tali, dico ci perché penso che siano tanti e tante a sentirsi non a suo agio, a sentirsi rifiutati, a sentirsi emarginati. E penso anche che quello che Orso ha fatto possa essere d'esempio, e tanto nella scelta radicale, e magari io la interpreto anche un po' come quando lui dice che dobbiamo essere gocce, non credo che ci stia invitando per forza ad andare in Siria, ma quella goccia può essere, quando piove in tanti posti, e la goccia può essere tranquillamente uno di noi o una di noi, che non in Siria ma qua in Italia, e penso ancora di più in tutto il mondo. Andiamo in onda un altro contributo che ci è arrivato dall'occupazione di Viale Corsica. È un'occupazione fiorentina, lo dico per chi fosse all'ascolto e magari non conosce così bene il territorio fiorentino. È un'occupazione a Rifredi proprio, e magari, se mi permetto anche di spendere due parole su Rifredi. Rifredi è il quartiere dove è nato ed è cresciuto Lorenzo Orsetti, e dove tra l'altro sono cresciuto anch'io, così come tantissime persone. È un quartiere veramente enorme, è la quarta città della Toscana, conta più di 100.000 persone, è un quartiere che ha visto la sua espansione, oserei dire selvaggia, un'urbanizzazione veramente, veramente spinta, a partire dal dopoguerra, dagli anni 50, ha vissuto un boom economico, era il luogo delle fabbriche, era l'area industriale fiorentina per eccellenza, vi erano industrie che accoglievano migliaia di operai, e così sono nate scuole in quell'area. Ora naturalmente la situazione è un po' cambiata, però naturalmente l'urbanizzazione è quella, è ancora quella degli anni 60. E io ci ho abitato, mi sono sentito un po' in un certo senso un pesce fuor d'acqua, nel senso che sono contesti che, un po' come tutte le periferie delle grandi e medie città, comportano un determinato tipo di vita, e quindi ora poi lascio la parola ai Corsici, però ecco, questo per dire che il luogo dove nasci e dove cresci ha un'influenza enorme su quello che poi sei, su quello che poi diventi. Parola ai Corsici. Ciao ragazzi, vi leggo il comunicato che avevamo scritto nei compagni di Corsica 81, un messaggio tremendamente ancora attuale e che rivolgiamo in primis anche a noi stessi, oltre che a consegnarlo a una lettura collettiva. Eccolo qua. Orso non c'è più, Orso il compagno, Orso il combattente, Orso l'anarchico, Orso l'eroe, al di là di qualsiasi retorica, perché certe parole come certe persone hanno ancora un valore. Ma anche Orso il ragazzo non c'è più, quello di infinite scorribande, quello che cucina con piacere solo per gli amici, quello che adora più i cani che gli umani, o almeno della maggior parte di essi, quello con occhi profondi che sembrano celare più mondi al loro interno. Orso che non sa mentire. Orso il precario, orso il preso male dallo schifo che offre Firenze, orso che non fa parte di nessun collettivo, orso che becchia le serate e non becchia i cortei. Orso della Tullo, non orso delle occupazioni, né di qualsiasi altro gruppo più o meno militante. Orso schiacciato da una vita che vorrebbe destinata a qualcosa di grande, ripiegata in una quotidianità che di grande ha ben poco. Orso come tutti noi. Orso che ci pensa e ci ripensa e alla fine lancia il cuore oltre la rassegnazione. Orso che dalla nostra città non ha certo ricevuto solo rose, ma che comunque perdona tutti, anzi, orso che scrive che ci ama tutti. Quanti orso ci sono nelle nostre città? Quanti vengono alle nostre serate e li guardiamo senza neanche vederli? Quanti ci vedono solo come gruppuscoli che giocano alla rivoluzione? Rendere giustizia al ricordo di Orso vuol dire allora anche scendere dal piedistallo, aprire le porte e lasciarle aperte. Smettere una volta per tutte di pensare di essere meglio delle persone che chiamiamo normali e che poi scopriamo essere in grado di compiere azioni straordinarie. Vuol dire conoscere le persone che ci circondano, aiutarle e farsi aiutare. Non rimpiangere di non averle conosciute o non averle conosciute abbastanza, perché da questo tristo presente ne usciremo tutti insieme, volendosi davvero più bene o non ne usciremo più. Ciao a tutti. Ehi, avete sentito Campagna di Corsica? Le voci sono tante, noi non toglieremo tempo, vi mandiamo un contributo ricevuto da Lele, un compagno. Allora, ciao, io ci ho pensato tanto, ma in generale così non mi viene da dire niente, però vorrei leggere, cioè mi avrebbero da dire troppe cose e tutto o niente, non saprei bene, però vorrei dedicare una poesia alla Triluzza a Lorenzo Orsetti nel primo anniversario della sua caduta. E la poesia si chiama La tartaruga, è di Triluzza. Mentre una notte se ne andava a spasso, la vecchia tartaruga fece il passo più lungo della gamba e cascò giù, con la casa voltata sotto in su. Un rospo gli strillò, scema che sei, queste sono scappatelle che costano la pelle. Lo so, rispose lei, ma prima di morì vedo le stelle. Ecco, dedicata a Lorenzo Orsetti. Scelte Coscher, grande amico, grande partigiano. Shardy kishbu ve kebiye. Ricordare oggi Orso vuol dire continuare la lotta, vuol dire continuare a lottare per insieme alle popolazioni che lottano in Siria del Nord-Est, devastata oggi da un'altra guerra. Io ho potuto vivere, come già ho raccontato ai microfoni di Radio Wombat, un momento particolare per la Siria del Nord-Est, un momento di pace, una pace conquistata con 11.000 morti, e tra forze curdo-siriane e internazionalisti. Anche Orso ha contribuito a regalare ai popoli della Siria del Nord-Est e a me un momento di pace in Rojava. Ecco, questa pace è stata nuovamente violata. È stata nuovamente violata con un attacco della Turchia ai danni della Siria del Nord-Est ad ottobre dell'anno scorso. E in questo momento la Turchia occupa una parte del Rojava, come aveva fatto prima ad Afrin, dove Lorenzo ed altri combattenti italiani internazionalisti avevano combattuto strenuamente, bombardati da elicotteri e bombe che portano la bandiera italiana. Ancora c'è tanto da fare, ancora c'è tanto da lottare per interrompere gli accordi che ci sono con il governo fascista turco e per impedire che genocidi e uccisioni di massa si continuino a perpetrare in Rojava. Ma di tutto questo ve la facciamo raccontare da Orso, la realtà che si viveva ad Afrin sotto l'occupazione nel campo profughi di Sheba e che si vive attualmente nelle città di Serekaniye e di Gerespi, che lui stesso nomina. Lascio a lui la parola. Salve a tutti, sono Tekosher, mi è stato chiesto di rispondere a alcune domande, di fare un punto della situazione. Dunque, a livello bellico si è appena conclusa la campagna di Deir ez-Zor, si è appena liberata la fascia di Deir ez-Zor, quindi potremmo dire che almeno a livello ufficiale lo Stato Islamico è stato sconfitto, lo YPG ha sconfitto lo Stato Islamico. La situazione dei civili ovviamente non è delle migliori, prima che potranno tornare alle loro vite dovrà passare molto tempo. Anche nel campo profughi di Bahos ho visto manca comunque cibo, acqua potabile, le Ajin, Azusa, queste città sono praticamente distrutte e sono ancora piene di mine, quindi insomma prima che queste famiglie possano tornare alla loro vita normale passerà diverso tempo. Penso che comunque sia i profughi, quelli che se la passano peggio di tutti, sono i 300.000 civili presenti nel campo di Sheba, che comunque sono gli sfollati di Afrin. E diciamo che loro sono quelli che hanno sofferto più di tutto, perché comunque c'è stata questa sostituzione etnica in corso, l'esercito turco ha cercato di rimpiazzare con arabi, turcomanni di religione sunnita, quindi i civili, tutti quelli che non erano appunto arabi, turcomanni, curdi, yazidi, eccetera, eccetera, si sono ritrovati cacciati dalle loro case, ma non solo, insomma. Dice esecuzioni sommarie, torture, stupri, rapimenti, insomma era tutto all'ordine del giorno, quindi insomma è gente che ha sofferto tanto a livello fisico, psicologico e comunque in Sheba le situazioni nel campo profughi non sono delle migliori perché manca tutto, mancano generi di prima necessità, medicinali base, quindi per assurdo si continuano a dare si continuano a dare soldi alla Turchia, tanti soldi, perché mi pare tipo 6 miliardi di euro l'anno alla Turchia, appunto per paura che aprano le frontiere e facciano entrare questi rifugiati in Europa. Ma la Turchia poi per cosa li usa? Li usa per creare altri rifugiati, altri sfollati. Cioè, ad Afrin si vedeva, ha usato il Free Syrian Army, le FSA, che comunque erano affiliati di Al Qaeda, al Nusra, riciclati dell'ISIS, e vedevi insomma jihadisti armati con i soldi della NATO, o comunque quando non li usa in quel modo comunque ci compra missili, mortai che comunque usa contro, qui nella Siria del Nord. Ora ho visto, hanno bombardato di recente un altro campo profughi a Makmur, in Bashur, quindi insomma è assurdo continuare a dare soldi alla Turchia visto l'uso che ne fa. Comunque è stato anche, io ad Afrin c'ero e per me è stato devastante vedere come nessuno abbia fatto niente. Ecco, la Russia ha lasciato libero lo spazio aereo alla Turchia, l'America non è intervenuta, tutto il mondo, noi avevamo il sostegno davvero di tanta gente, c'erano manifestazioni enormi in tutta Europa, ma nessun governo si è preso la briga di aiutarci concretamente. Ecco, e ovviamente sappiamo perché ci stanno sempre interessi economici dietro, ci stanno per dire, la Turchia ha triplicato nell'anno dal 2017 al 2018, tipo triplicato le spese militari, cioè, e con appunto anche paesi della NATO. Ora, ma si parla di miliardi e miliardi di dollari, mi pare soprattutto con la Germania, ma anche l'Italia vende componenti per gli elicotteri, ma in generale, cioè, ci stanno appunto interessi economici dell'industria bellica, uno, e comunque anche dei risorse energetiche, perché per dire la Russia trovò l'accordo per l'oleodotto, ci sta il petrolio, energie nucleari, insomma parlano tutti la stessa lingua, quella dei soldi e degli interessi economici. Ecco, quando invece qui staremo cercando di fare un progetto diverso, qui in Rojava c'è un esperimento bello di rispetto e di comunione, di rispetto per la diversità, di cercare di mettere tutti i popoli del Rojava in accordo tra loro, che non sono solo i curdi, appunto, sono curdi, assiri, yazidi, armeni. Cioè, è un progetto bello che potrebbe essere fonte di ispirazione per tutto il mondo, e invece vederlo crollare così per appunto sempre solo e soltanto gli interessi economici, fa male da vedere. Ecco, ora vediamo, perché appunto la Russia, purtroppo ci dovremo scendere a patti, perché comunque la Siria è questa, la Russia è quella che decide in zona del regime, e quindi qualche accordo andrà trovato. L'America dice che lascerà un piccolo contingente qui in Rojava, di circa 200 persone, mi pare, però anche lì bisogna vedere dove le lascerà, perché se le lascia a Deir ez-Zor sono inutili, se le lascia al confine magari potrebbero essere un deterrente per la Turchia per non attaccare. Ecco, la Turchia ha ammassato tutto quello che aveva sul confine. Si teme soprattutto a Serikani o dalle parti di Girespi, si teme un attacco anche ora in vista delle elezioni a marzo, visto che comunque, essendo la Turchia uno stato ultranazionalista, ogni volta che attaccano i curdi Erdogan acquista consensi, quindi si teme anche un attacco di recente, un attacco al più presto, quindi insomma. E ora vedremo come si evolve la cosa. Io ripeto, è un peccato, perché qui se avessero una pace duratura, sono sicuro che qui in Rojava, in Siria del Nord, in Rojava, si potrebbe portare avanti questo bellissimo progetto, ma ovviamente non, non è la stessa cosa farlo quando sei costantemente minacciato, costantemente in guerra, non, e devi costantemente difenderti da tutto e da tutti, ecco. E quindi noi continuiamo a sperarci, a crederci. Ad Afrin sono stati fatti degli errori, ma stiamo cercando appunto di non ripeterli, stiamo cercando di farci trovare preparati. Però ecco, ovviamente, cioè, non siamo una superpotenza, ecco, siamo combattenti rivoluzionari, no? Non siamo un esercito di soldati regolari, quindi sarebbe terribile vedere un'altra volta il mondo girarsi dall'altra parte e fare finta di niente, mentre appunto civili e bambini muoiono nel peggior modo, perché li ho visti i cadaveri carbonizzati della gente sotto gli airstrike. Ecco, non è il massimo. Ecco. Si spera che questa volta il mondo non si girerà dall'altra parte. Ecco. Noi comunque siamo qui, cercheremo di fare del nostro meglio e niente, un saluto a tutti voi. È incredibile quanto ancora queste parole siano attuali, perché la situazione in Turchia è ancora la situazione in Siria è ancora molto molto complessa, anzi forse lo è più di allora, e ancora la Turchia utilizza gli stessi metodi di allora per contrastare una rivoluzione che noi non possiamo fare altro che sostenere. Sentivamo Orso parlare della questione dei migranti, e è proprio di questi tempi che è tornata super attuale, veramente sulle prime pagine di tutti i giornali, fino a che poi non è stata sommersa e cancellata dall'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Ma sul confine fra la Turchia e la Grecia la situazione è ancora molto molto tesa. Si ricorda che buona parte delle persone che cercano di attraversare il confine vengono proprio dai territori della Siria, in particolare dalla parte nord della Siria, che sta vivendo momenti di dura battaglia. E intanto ne approfitto per leggere i primi messaggi che ci sono arrivati. Vi ricordo, dovete scrivere al pad.scisti.org/p/direttawombat. C'è chi lo ha fatto e così dice: oggi dal balcone di Rifredi si è cantato Bella Ciao per Orso. Crede l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci siano anche dei video su Facebook merda. Grandissimi, grazie Wombat per questi momenti. Questi momenti sono poco in confronto alla giornata e alla serata che doveva svolgersi all'Auditorium Flog. Ma ci dobbiamo accontentare di questo, visti i tempi che passano, e ci dobbiamo anche accontentare di interagire attraverso un pad di scisti. Non possiamo farlo guardandoci, ma noi bombati e bombatesse speriamo comunque di riuscire un po' a trasmettere le emozioni che stiamo passando, sia noi che siamo in diretta, ma anche tutte le persone che hanno mandato i contributi nell'arco di questa giornata. Contributo che ci arriva dalla comunità curda e che salutiamo e anche loro stringiamo tutti vicino a noi, la comunità curda di tutta Italia, che quest'anno purtroppo ha dovuto rinunciare alla festa del Newroz, ma il fuoco alto di Ararat continua a bruciare dentro di noi. Salve, ciao a tutti e a tutti. Oggi purtroppo siamo tutti a casa. È una giornata, un momento, momentaccio, diciamo, per tutta Italia. È un virus che è fatto veramente molto grave anche in Italia e soprattutto in Italia, perché più di 2.000 persone morte, più di 25.000 persone, circa 30.000 persone sotto di questo problema. Ancora stanno ospedale, a casa, non sappiamo ancora come andrà, come succederà, cosa succederà, non sappiamo. Per questo io do dal nome Movimento Curdo e Comunità Curda Toscana, do condiglianza a tutti i famiglia che hanno perso vita. E speriamo andrà tutto bene, speriamo di questo problema prima possibile risolviamo tutti insieme. Per questo siamo a casa, lo sapete, il 18 marzo 2020, anniversario del nostro martire Lorenzo Orsetti, nome delle guerriere Tekosher Plank. Un anno fa, del momento che abbiamo preso queste notizie di Lorenzo, è una notizia terribile, una notizia nera, una notizia che ha fatto male a tutti. Allo stesso momento ha dato anche responsabilità a tutti, perché è un ragazzo, un ragazzo bello, giovane, in Italia, italiano, come mai va a Rojava, non conosce un popolo, però va lì con loro, comincia a lottare. Quando abbiamo letto la sua lettera, consapevole, sapeva benissimo dove va, sapeva benissimo cosa devi fare per rompere il silenzio dell'Europa, d'accordi dell'Europa, il fascismo dell'Europa, il d'accordo del petrolio, d'accordo delle armi, d'accordo con la Turchia, con il dittatore di Erdogan. Per rompere di questo silenzio lui è andato. Lorenzo, in lettera che ha lasciato a noi per portare avanti di lotta, la sostegno, fatto svegliare a tutti, in tutto il mondo, perché come Anna Camper e altri internazionalisti, quando hanno dato vita, in Europa ha cominciato a sentire una responsabilità, perché il popolo curdo, lo sapete benissimo, 42 anni, movimento curdo PKK, con suo leader Öcalan, ancora continua contro il fascismo, contro di Erdogan, contro il sistema dell'Erdogan, continua a lottare. Ogni d'accordo, siamo mezzo delle vittime di d'accordi Europa in Turchia. Il popolo curdo, tantissima gente non conosceva nemmeno, non sapevano nemmeno che cos'è. Lorenzo, fatto ricordare un'altra volta anima di 1945, contro il fascismo, che vuol dire guerra, che vuol dire lottare. Noi ricordiamo bene PKK dal inizio, con sua ideologia, fatto capire che è un movimento internazionalista. Ricordiamo bene Haki Karer, Kemal Pir, Hayri Durmuş e migliaia di turchi, compagni turchi, hanno dato vita da 42 anni. Per questo movimento curdo è proprio una ideologia, portare avanti contro il fascismo. Per questo l'accordo dell'Europa, l'accordo dei capitalisti, hanno fatto 20 anni fa, 22 anni fa, hanno fatto un complotto, hanno portato via il nostro leader, sta a una isola da solo. 9 anni fa è cominciata un'altra guerra più forte, a Rojava, perché popolo curdo, movimento curdo, con YPG, YPG, con PYD, con PKK, con tutte le etnie che vivono a Rojava, hanno cominciato proprio il sistema del democratico confederalismo, hanno accettato. Dopo tanti, tanti anni di discussione, hanno accettato un'alternativa contro il fascismo, questo. Democratico confederalismo, con tutte le etnie, etnie che vivono a Rojava, anche tutti in Medio Oriente, possono vivere tranquillamente insieme. Uguaglianza, diritti umani, diritti religioni, tutti insieme possono vivere. Ecco questo è il punto, d'accordo delle armi, d'accordo del petrolio, e poi il fascismo della Turchia ha preparato un terrorismo, un gruppo terrorismo dell'ISIS. E un'altra volta continuato genocidio sul popolo curdo. Per questo Lorenzo Tekocer, con tutto sapevole, con tutto credere, è andato a Rojava a combattere contro di Erdogan, combattere contro il fascismo turco, contro di d'accordo di economia, contro dell'Europa. Per questo noi dobbiamo ricordare bene Lorenzo Tekocer. Noi dobbiamo ricordare bene Tekocer Plank. Noi dobbiamo ricordare, dobbiamo dare responsabilità. Perché Öcalan sempre ha detto, il nostro martire hanno dato a noi un'altra responsabilità più forte. Per questo noi dobbiamo ricordare il 18 marzo, sempre, ogni giorno. Dobbiamo dare una responsabilità fronte a queste lettere. Dobbiamo prendere responsabilità contro fascismo. Lottare ogni maniera. Da un anno abbiamo cominciato a promettere Tekocer Plank che siamo tempesta contro il fascismo. Abbiamo iniziato da istituzionale, da prefettura, dal governo, a tutte le parti. Abbiamo bussato la porta. Dobbiamo rompere silenzio, abbiamo detto questo, dobbiamo rompere silenzio dell'Europa, perché davanti all'Europa Erdogan ancora, anche oggi, ancora minaccia con profughi. Per questo noi dobbiamo dare una responsabilità più forte. Se siamo unire, sicuramente verrà libertà. Per questo noi dobbiamo ricordare bene, dobbiamo essere tempesta, come abbiamo promesso il 18 marzo 2019 a Lorenzo Tekocer Plank, orso, il nostro compagno, nostro amico, nostro fratello, il nostro martire. Dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo ogni giorno ricordare Tekocer per portare sua lotta avanti. E sua lettera ha dato a noi questo. Ogni martire lascia a noi una responsabilità più forte. Anche Tekocer Plank ha lasciato a noi una responsabilità più forte. Per questo noi dobbiamo continuare. Erdogan ancora bombarda Afrin. Ancora occupa Rojava. Ancora arresta parlamentari curdi, sindaci curdi. Il fascismo ogni giorno aumenta più forte, però anche noi stiamo aumentando di più forte. Anche noi con l'ideologia del democratico confederalismo, ideologia di Öcalan, ideologia del PKK, abbiamo cominciato a unire, perché il democratico confederalismo ha portato a noi diritti umani, portato a noi avanti per essere umano, per libertà, per la pace. Devi continuare, bella ciao. Per questo io dico un'altra volta, con la parola più mi dato un significato importante, non esiste uomo folle al punto di preferire la guerra alla pace. In pace i figli spelliscono i padri, in guerra sono invece i padri a spellire i figli. Abbiamo sentito tantissimo questo, abbiamo visto tantissimo questo. Per questo, per cambiare mondo, per portare avanti pace, per libertà, dobbiamo continuare insieme a lottare contro il fascismo. Ricordare Tekocher Plunk un'altra volta, condiglianza per tutto il popolo curdo, perché è il nostro martiri. Condiglianza un'altra volta per genitori Alessandro Annalisa Orsetti e suo figlio biologico, però il nostro amico, il nostro fratello, il nostro compagno, il nostro guerriere. Shehit Namrin, Shehit Namrin, Shehit Namrin. Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong. Dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Allora ne approfittiamo per ricordare a tutti e tutte che siete in ascolto di Radio Wombat, per chi si fosse sintonizzato adesso, e ne approfittiamo anche per ricordarvi che pure le canzoni che stiamo passando per spezzare tra un intervento e un altro sono canzoni che a Urso stavano molto a cuore e suggerite molto spesso, quasi tutte, da amici e o amiche. To help you feel this feeling, let you ride along, dreaming about the way you feel now when you hear my song. Lasciamo di nuovo la parola ad un internazionalista, si tratta di Gabar. A distanza io non riesco a trovare delle parole sensate, ricordo bene quei momenti, quella mattina in cui, insomma, col via vai di messaggi e comunicazioni da giù e non si riusciva, insomma, a rimanere freddi. E, insomma, nel non trovare delle parole per descrivere il momento della scomparsa di un compagno, penso che il modo migliore per onorare quello Sheridan Amerin sia proprio ricordare la vita di questo compagno. Io di Orso posso dire una cosa essenzialmente. Secondo me il fatto che lo ha reso, come dire, ha generato l'affetto di tanti suoi amici, della gente che aveva conosciuto giù, e il rispetto di quelli che magari si trovavano in disaccordo con lui. È stato proprio il fatto che lui la rivoluzione l'ha sempre concepita una cosa alla quale bisogna partecipare, non qualcosa di dogmatico da ripetere in maniera sterile, quasi come fosse un copia e incolla, ma un mix di, come dire, empatia vera, empatia nell'essere umani con il prossimo e nel comprendere il contesto in cui si vive, e la lucidità per essere critici, anche per essere critici verso tutto ciò che si sta sostenendo. Lui quella rivoluzione la sosteneva, ci credeva fino all'ultimo in quello che stava facendo, però aveva anche la lucidità di esporre delle critiche. E questo per me, insomma, è stata una particolarità di Lorenzo, perché non in tutti gli internazionalisti abbiamo trovato questa sincerità nel spiegare il contesto rivoluzionario in cui siamo stati, o in cui, insomma, lui è stato fino all'ultimo momento della sua vita. Io voglio concludere con un pensiero, perché ricordo bene, insomma, i momenti che abbiamo trascorso insieme. È stato il momento in cui, a causa dell'epatite, mi hanno messo in quarantena in una camera isolata dell'Accademia degli Internazionalisti, e Lorenzo con altri due compagni avevano deciso, insomma, di sfidare i divieti e venirmi a trovare durante la giornata per provare a tirarmi sul morale. Ricordo che avevo dovuto lasciare il fronte proprio perché ho avuto la fase acuta di questa malattia mentre ero al fronte, quindi non se l'aspettava nessuno. Quindi in fretta e furia mi hanno spostato nel giro di due giorni dal fronte a questa camera di quarantena. Ogni notte prima del Nobet Lorenzo veniva a trovarmi per dire qualche parola, rinunciando alle poche ore di sonno, insomma, che servivano a disposizione, visti i ritmi serrati della fase di training, di addestramento. E niente, non ho, in pochi minuti non si possono spiegare tutte le conversazioni, e, insomma, gli scambi di idee, di battute, però credo che pochi piccoli gesti possono aiutare a spiegare chi era lui e come, insomma, come lo abbiamo vissuto laggiù. E il fatto di prendersi a carico la cosa di procurarmi del cibo, non c'era cibo adatto per il mio tipo di malattia, quindi lui con altri compagni si mette, adoperavano per cercare qualcosa che io potessi mangiare, il fatto di sfidare i divieti, il fatto di ogni tanto faceva dei disegni, delle vignette in cui paraculava noi, paraculava anche i suoi compagni di classe per provare a farmi ridere. Credo che possiamo parlare di tutte le teorie politiche del mondo, ma sono gli episodi che ti spiegano forse come gli esseri umani interiorizzano il contesto rivoluzionario. Colgo anche l'occasione, insomma, se questo audio sarà ascoltato da qualcuno, per dire che è vergognoso che una compagna venga perseguitata per ciò che ha fatto a sostegno di tutta l'umanità e venga perseguitata nel silenzio generale dello stesso paese, della stessa nazione, che ha pianto in maniera ipocrita Lorenzo. Credo che questo gesto di condannare Eddie il giorno prima della commemorazione di Orso sia una sfida e una provocazione da parte dell'apparato repressivo nei confronti di quella che è proprio la macchina della solidarietà. È come dire noi non guardiamo in faccia a nessuno. E fa ancora più rabbia che abbiamo colpito una nostra compagna e l'abbiamo fatto in maniera infame, nel senso che si era detto che la decisione veniva rimandata e poi probabilmente, volendo approfittare del fatto che l'attenzione mediatica era spostata sulla questione del coronavirus, sotto banco hanno fatto passare questo provvedimento repressivo nei confronti della nostra compagna. A lei va tutta la nostra complicità e invito tutte e tutti ad onorare il sacrificio di Lorenzo, anche facendo sentire in maniera dura la propria voce, in solidarietà ad Eddie e a tutti i compagni che sono stati perseguitati per le loro scelte di vita, per le loro scelte di sostegno a tutta l'umanità. Grazie, grazie insomma per questo spazio. Shade Namekin. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Di Davide Grasso, proveremo a mandarvelo più tardi. Ora, si è parlato di sorveglianza speciale, ne parleremo e ne riparleremo. Ne parlano tutte le compagne, tutti i compagni negli interventi e sottoscriviamo le parole di Eval Gabar, combattere, ricordare Lorenzo oggi per combattere contro questa misura assurda assegnata a Eddie della sorveglianza speciale dalla Procura di Torino. Ma sentiamo Jacopo, parleremo ancora della sorveglianza in seguito. È passato un anno dalla notizia del martirio di Lorenzo, eppure sembra ieri. Un giorno come quello di oggi è importante ricordarci sempre di Lorenzo, mantenere viva la sua memoria, la memoria del suo esempio, delle sue parole, dei suoi scritti e soprattutto delle sue azioni. In un momento come questo, forse ancora di più, abbiamo bisogno di persone come Lorenzo, che sono disposte a rischiare tutto per aiutare gli altri, per aiutare i più deboli, per non mantenere viva la solidarietà nella società, perché credono nell'amore tra le persone, nell'aiutarsi, nel sostenersi, nel vivere liberi e non credono all'individualismo, al si salvi chi può. Lorenzo ha fatto la sua scelta e proprio questi principi li ha sostenuti, ha difeso le persone, ha difeso la libertà, la solidarietà, ha difeso i più deboli di fronte ai carri armati e ai jet del secondo esercito della NATO ad Afrin. Lo ha fatto di fronte ai tagliagole dell'ISIS a Baghuz fino al suo ultimo giorno, fino a quando ne ha avuto le forze e la possibilità. Lorenzo è stata l'espressione di uno di quei grandi insegnamenti della rivoluzione curda confederale, ovvero l'unione tra il pensiero, la parola e l'azione, una coerenza tra ciò che si pensa, tra ciò che si dice e ciò che si fa. E vediamo quanto ce n'è bisogno nel mondo di oggi di persone di questo tipo. Dopo l'esperienza di Afrin, una volta mi sono lasciato sfuggire con dei compagni il fatto che ad Afrin fossero morte molte persone, fossero morti molti compagni e compagne. Beh, loro mi criticarono subito, mi dissero: non è così, i martiri non muoiono, i martiri rimangono con noi, sono vivi nelle nostre lotte, sono vivi nella nostra memoria, non puoi dire che sono morti. Bene, io a queste parole adesso ci credo, penso che Lorenzo viva in tutte le cose che facciamo per gli altri, viva nei momenti di ricordo e di memoria, viva nelle manifestazioni e nel sostegno che facciamo per la Siria del Nord, ma in realtà che viva in tutte le lotte per la libertà, ovunque ci sia una lotta per la libertà, ovunque ci siano dei gesti di umanità, di solidarietà e di sostegno reciproco tra le persone, Lorenzo vive in quei gesti, vive in quei valori. A noi rimane l'arduo compito di seguire il suo esempio, di imparare da lui, di averlo sempre in mente quando affrontiamo le difficoltà, per poterle superare, per poter stare insieme, per diventare anche noi degli esseri umani sempre migliori. In giorni come questo è importante fare ricchezza delle sue parole, dei suoi scritti, dei suoi video e provare a confrontarci con le cose che dice, a sentirle nel profondo, e deve essere un nostro preciso dovere ricordarci dei martiri e di Lorenzo per mantenerne viva la memoria. Bene, adesso concludo. Shahid Namirin, i martiri non muoiono. Giornata in cui tutti avremmo voluto riunirci per ricordare Orso, ringraziamo Radio Wombat che ci permette di farlo. Io sono la mamma di Dana, un amico fraterno di Orso, che in questo momento non può ricordarlo personalmente, per cui lo faccio io per lui. Mi ha scritto qualche giorno fa qualche riga e scrive: «Ciao biscottino, c'è poco da dire. Potrei lanciarmi nelle lucubrazioni sull'amore, sulla politica, sull'eroismo. Ma non posso che dirti che sei qui. Detesti perderti in chiacchiere, nella retorica, e allora saremo concreti come ci siamo insegnati, duri, veri duri, che amano coccoli e biscottini, perché come sanno i veri duri non c'è altro all'infuori del cuore. Ti ringrazio, ti amo, perché c'è dolore che fa male e dolore che cambia, e se io sto lottando la mia piccola guerra è grazie anche a te. Il tuo pensiero mi sprona a diventare un uomo migliore, perché come mi hai insegnato, un uomo che accetta la condizione della propria vita svende la propria anima. Ogni momento in cui si pensa alla morte è tempo rubato la vita e per me tu sei vita. Questo è l'unico modo per sostenere la tua mancanza, perché come vedi tu sei legato a qualcosa di così eterno e vitale in me che non credo riuscirò mai a scuoterti via. Ti voglio bene, Dana. Sono nelle triti spaziali, nelle notizie da caso dei fronti siriani, sono negli alberi monumentali, in quelli abbattuti nei piani astrali, sono tra i cercatori d'oro, tra i fiori che crescono su ogni abbandono. Sono pericoloso io che ti rassicuro, visto all'improvviso è arrivato il futuro e adesso sono qui. È un superpotere essere vulnerabili. Gli eventi catastrofici, in quelli magnifici, dentro i fili elettrici. Sono nelle nuove idee, in supermercati più grandi, delle più grandi moschee. Sono stato avvistato, identificato. Sono in cielo dopo che è diluviato. Sono alla deriva, nelle correnti, tra pensieri, passaporti e vite precedenti. Adesso sono qui, dove sono possibili cose impossibili. Un karma irrisolto, sono in uno spazio sacro, suono all'aperto con il coprifuoco, sono volto come un cielo stellato, vedi qui era buio e ora illuminato, sono al di là della paura in quella prateria infinita, piena di pericoli, strapiena di vita, piena di pericoli, strapiena di vita. Adesso sono qui, è un superpotere essere vulnerabili. Superpotere essere vulnerabili, vulnerabili. E adesso sono qui, dove sono possibili cose impossibili. Gli ascoltatori, un ascoltatore o un'ascoltatrice ci ringrazia per aver messo una canzone poco fa, la stavo per chiedere, grazie anche per averci iscritto e naturalmente noi non possiamo fare altro che rimbalzarvi i ringraziamenti, grazie a tutte e tutti voi che ci state ascoltando, è veramente un onore e un piacere per noi essere qua anche a un po' smorzare a queste giornate di quarantena. Abbiamo sentito la voce della mamma di Dana, abbiamo pronto questo file, l'audio di Davide Grasso che finora non c'era riuscito a ricaricare, allora ve lo mandiamo. Davide Grasso è un internazionalista, anche lui è stato in Siria, è tornato. E forse Xina voleva dirci qualcosa di più? No, allora ce lo ascoltiamo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Wombat, tutte le fiorentine e i fiorentini. Volevo testimoniare la mia vicinanza alla città di Firenze e a tutti i suoi abitanti oggi in cui ricorre il primo anniversario della morte di una persona davvero speciale che Firenze ha regalato a tutta l'Italia, alla Siria, al Kurdistan e al mondo intero. Lorenzo Orsetti, che i suoi amici a Firenze chiamavano Orso, che io ho conosciuto con il nome di Tekosher in Rojava, con cui poi sono stato in contatto dopo che sono tornato in Italia, per lo più via internet, anche se in modo molto, come dire, frammentato, perché lui era sempre al fronte e insomma, non era sempre facile ovviamente avere contatti con lui. Io sono rimasto molto colpito da quando lui, che io avevo appunto incontrato quando ancora non aveva iniziato materialmente a combattere, ha mandato dei dispacci da Afrin in cui raccontava quello che aveva vissuto, i suoi compagni che erano morti, le situazioni difficili anche dal punto di vista della scelta, anche dal punto di vista etico, dal punto di vista esistenziale, che lui già nelle sue prime esperienze, come era anche successo a me, aveva dovuto affrontare. E quindi ho sentito subito un'empatia enorme per questo ragazzo, perché mi sono reso conto che aveva vissuto delle cose che io pensavo, ben pur non conoscendole nel dettaglio, ovviamente potessero essere paragonabili ad alcune che avevo vissuto io. E per questo mi ha davvero colpito quanto lungo poi lui è rimasto nella Sierra del Nord, perché io proprio perché avevo vissuto delle cose piuttosto dure, dopo alcuni mesi ero tornato in Italia e da allora, salvo un altro viaggio in Rojava, mi sono dedicato insomma, a fare informazione. Lui è rimasto lì e ha continuato ad andare al fronte, a partecipare a delle operazioni, tra l'altro molto difficili contro lo Stato Islamico, l'ISIS, che in quel momento era rintanato in alcune zone di una provincia pressoché desertica vicino all'Eufrate e diciamo era rintanato lì con tutti i suoi miliziani più fanatici, soprattutto i foreign fighter dell'ISIS, che continuavano a tenere in ostaggio la popolazione, farne scudo umano, disseminare tutto di mine, costruire tunnel, fare agguati contro chiunque cercasse di stanarli, e Lorenzo era uno di questi. E quindi diciamo che lui evidentemente aveva maturato una esperienza già in pochi mesi e una determinazione di combattente che davvero lo metteva, me ne rendevo conto, in una posizione particolare rispetto a me e a tanti altri. Quando ho saputo che era caduto in battaglia, devo dire che non mi sono stupito perché io appunto per esperienza so quanto è difficile sopravvivere anche soltanto a una o a due battaglie nella guerra civile siriana. Figuriamoci come ha fatto lui dopo un anno e mezzo che era lì e continuava a combattere. Però è stato terribile quel giorno. Devo dire però che anche l'emozione che la sua figura e il suo destino hanno suscitato in tutta l'Italia mi hanno davvero fatto piacere. Comunque il fatto che tantissimi italiani, italiani o persone che vivono nel nostro paese, anche se non sono di madrelingua italiana, continuano a ricordarsi il nome di Lorenzo Orsetti e sanno benissimo di cosa si è trattato, di che tipo di persona era, e comunque lo rispettano, e moltissimi lo ammirano. Quindi questa è una delle cose che mi concilia con il mio paese, nel momento in cui tante altre cose, come sempre, invece mi allontanano da quello che nel mio paese succede, in primo luogo la decisione incredibile del Tribunale di Torino di mettere una compagna di Lorenzo, Maria Edgarda Eddi, che ha combattuto al suo fianco, nella parte femminile dell'esercito in cui combatteva Lorenzo, ad Afrin, metterla alla sorveglianza speciale e limitarla alla sua libertà. In ogni caso, Firenze deve essere davvero, orgogliosa di Lorenzo, ma credo che tutte le fiorentine e i fiorentini non debbano limitarsi a questo, ma, davvero ogni giorno riflettere su quello a cui il sacrificio di Lorenzo ci impegna, e cioè, rileggere le sue parole, riflettere sulle sue parole e cercare di essere gocce ogni giorno, nel modo che magari un giorno potrà produrre una tempesta benefica per la città di Firenze, per l'Italia e per il mondo intero. Collettivo Non Una di Meno Firenze, ringraziamo Radio Wombat per dare voce anche a noi nel ricordo di Orso. Un anno fa leggevamo la notizia della morte di Orso, ricevevamo le chiamate degli amici e delle amiche, stavamo vicino ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, amato, accompagnato nelle sue scelte rivoluzionarie, personali e collettive. Abbiamo provato a ricordarlo anche quando ci mancavano le parole, ricostruendo i pezzi della rivolta delle compagne e dei compagni curdi, che proprio sul fronte della liberazione delle donne ha individuato una potenza rivoluzionaria inedita. Le comunità di donne, le pratiche femministe, la distribuzione del potere che riconosce nel genere un nodo, la scienza delle donne, le unità di combattimento delle donne. Su questi e altri versanti si è aperta fra noi una lunga discussione. Lo abbiamo fatto con le sue amiche e compagne, con chi è sopravvissuto e continua a mantenere in vita quelle parole e quelle lotte. Chi muore è un eroe, a cui vengono conferite medaglie, ma chi rimane continua ad essere perseguitato, perseguitata, condannato, condannato come socialmente pericolosi. Ed ieri la notizia della condanna a 2 anni di sorveglianza speciale per la nostra compagna Eddie, a cui va tutta la nostra solidarietà, la nostra rabbia, il nostro amore. Crediamo che chiunque sia goccia della tempesta che Orso augurava sia l'espressione più alta di un'alternativa che esiste ad un mondo fatto di sfruttamento spietato, distruzione di terra e ambiente, brutali ineguaglianze. Dalla Siria all'Italia, dal Kurdistan alla Palestina, dalla Turchia all'America Latina, vogliamo alzare in questo giorno di dolore un grido collettivo di resistenza. La morte di Orso non è vana, perché nelle lotte quotidiane, nelle reti che ci legano, diamo vita al mondo per cui fino all'ultimo lui ha lottato. Chi accompagna e compagni non muore mai. Le compagne di Non Una di Meno Firenze. Viva Orso! Now a little something for all those of you who live in the past. And that's about 99% of you idiots out there. Gennaio 2019. Ok, sono impegnati politicamente e gliela volete far pagare, ma l'ipocrisia è evidente, visto che quando c'era da compiacere gli americani o da svoltare geopoliticamente ed economicamente parlando, le truppe in Rojava le avete mandate anche voi, in segreto, per paura di ripercussioni. O cosa? È solo questione di mantenere il monopolio della violenza nelle vostre mani corrotte? Ridicoli, come sempre. A tutti i compagni ingiustamente accusati ovviamente va il mio pensiero, il mio pieno supporto. Avete già dimostrato la vostra forza in questo posto e sono certo che supererete anche questa stupida, assurda bega. Lorenzo Orsetti. Davide è riferito a Grasso, implacabile come il destino, ci scrive un ascoltatore. Supereranno anche questa stupida assurda bega, la supererà Eddie e ce lo facciamo dire da lei. E la ringraziamo anche per aver trovato il tempo di mandare questo contributo per Orso in una giornata, in delle giornate così, così difficili. E siamo con te Eddie, ti stringiamo fortissimo. Avrei voluto scrivere un finale diverso, uno in cui magari strappavamo il villaggio al nemico senza problemi, ma la realtà non è un bel racconto. E in fin dei conti, per questa storia un finale ancora non c'è. Sulle colline di Afrin si resiste, si vince e si perde, si vive e si muore. Ma se la lotta non si spegne, vuol dire che la speranza vive ancora. A volte, Kosher, è sempre così difficile aggiungere qualcosa alle tue parole, così chiare. Il mondo in questi giorni è strano, ma ancora di più, probabilmente, ha bisogno della lezione che tu e tutte le altre compagne e compagni martiri ci avete dato. Anche oggi, come ogni giorno, rinnoviamo la promessa che la tua memoria impone. Cerchiamo di essere quella singola goccia. Ieri la Procura di Torino ha deciso positivamente per la sorveglianza speciale nei miei confronti. Non accetterò in nessun modo questa misura, non ho intenzione di limitare in alcun modo la mia libertà personale. Molto più forte della voce dello Stato italiano risuona per me di nuovo la tua, quella di Elin, quella di Legherin, di Khalil, Andok, di tutte le compagne e tutti i compagni, a cui va tutto il mio rispetto, tutto il mio amore, tutta la mia gratitudine. Shahid Namerin. Ciao a tutti, sono Giulia e credo che in questa giornata di commemorazione, sia di commemorazione di Shahid Tegusher, sia fondamentale rinnovare la nostra promessa che gli abbiamo fatto di diventare tempesta. Abbiamo proprio il dovere di diventare un'immensa tempesta e credo che credo che l'esempio di Tegusher sia sicuramente un grande esempio per poter realizzare tanta bellezza e per poter davvero essere una tempesta impetuosa. È fondamentale che sviluppiamo tutti insieme una personalità rivoluzionaria e che proprio soprattutto in questi momenti condividiamo quello che tutto quello che sta succedendo e combattiamo a fianco di ogni singola oppressione, proprio come faceva Lorenzo, come ce lo descriveva in ogni suo aggiornamento, in ogni sua audio, intervista. Credo che questo sia un punto cruciale per poter onorare Lorenzo. E mi sento di dire un'ulteriore cosa, che ovviamente dopo la cosa vergognosa che è successa ieri, ovvero la condanna vergognosa da parte del Tribunale di Torino nei confronti della nostra compagna Eddie Marcucci, abbiamo il sacrosanto dovere di dover combattere contro questo pericolosissimo precedente che vuole criminalizzare, soprattutto rendere dei trattare proprio come terroristi, chi invece i terroristi li va a combattere. Ovviamente con un'ipocrisia di fondo, quella che lo Stato italiano, quando i combattenti muoiono, fa finta di piangerli, rendendoli eroi, e quando invece sono vivi, li incarcera oppure li condanna a misure fortemente lesive della libertà, come è successo ieri con la sorveglianza speciale, o semplicemente li indaga. E ovviamente tutto questo rappresenta insomma una gravità inaudita contro cui è doveroso combattere, anche e soprattutto per commemorare il nostro Shahid, che si rivolterebbe vedendo tutto questo, insomma, vedendo tutto quello che è successo ieri. Eppure abbiamo davvero il dovere di andare avanti, di combattere fianco a fianco gli uni e le une con le altre e gli altri e scompaginare proprio questo status quo. Questo, insomma, penso che sia un punto importantissimo. Un altro punto fondamentale è quello di diffondere la rivoluzione del Rojava. Diffondere la rivoluzione della confederazione del nord-est della Siria, perché sebbene ci siano stati dei brutali attacchi, questa rivoluzione ancora c'è e continuerà ad esserci. Tanta gente, tante compagne e tanti compagni stanno combattendo, continuano a dare la vita e continuano a realizzare tanta bellezza. E noi abbiamo proprio il dovere di diffondere tutto questo, di realizzare ulteriore bellezza nei nostri territori. Mi ricordo che in un'audio intervista Lorenzo disse che era molto preoccupato di un attacco, e quell'attacco poi c'è stato il 9 ottobre, proprio perché temeva che gli americani si sarebbero ritirati e che sarebbe successo quello che poi è realmente successo. Tuttavia, nonostante la brutalità di questi attacchi, noi non dobbiamo assolutamente perdere la rassegnazione, nonostante quello che è successo che sta succedendo nei nostri territori con questa enorme emergenza, abbiamo davvero il dovere di ricordare che un'alternativa è possibile, esattamente come è stato in Siria, esattamente come in Siria sta continuando nonostante numerose difficoltà, e quindi proprio è fondamentale diffondere questa rivoluzione, e solo così la possiamo difendere, solo così possiamo onorare il nostro martire, e solo così possiamo davvero combattere proprio contro ogni ingiustizia. Quindi, Serkeftin, e davvero rinnoviamo la nostra determinazione a essere tempesta. Where did you sleep last night? Abbiamo sentito le parole di Giulia, una compagna di Rete Gin, che salutiamo tutte le compagne di Rete Gin in ascolto, e prima ancora avevamo sentito le parole di Non Una di Meno e le parole di Orso stesso sulla sorveglianza speciale e le parole di Eddie, ma ancora Orso aveva parlato di sorveglianza speciale in un'altra delle sue interviste che vi proponiamo. Salve a tutti, mi chiamo Lorenzo, il mio nome di battaglia è Tecocher, ho 32 anni, vengo da Firenze, da un anno e mezzo ho preso parte alla rivoluzione dei popoli del Rojava, ho combattuto ad Afrin e a Dere Zor diverse volte, sia ad Agin che al Susa. Le immagini che vedete nel deserto sono proprio girate fuori dal deserto di Agin, che è stata una battaglia molto dura, ci abbiamo messo molto tempo a conquistarla perché era un po' una roccaforte, era molto ben difesa, ogni volta che prendevamo territorio poi Daesh contrattaccava, perdevamo tutto e toccava rifare tutto da capo, quindi molti compagni sono morti nello sforzo per conquistare quella città. L'altra grossa battaglia si è tenuta dal Susa pochi giorni fa, e anche lì siamo riusciti alla fine, tra una cosa e un'altra, ad avere la meglio. Gli ultimi due villaggi che erano rimasti, Bahus e Marashida, li abbiamo conquistato Bahus proprio nel periodo in cui ero al Susa, e ora resta solo Marashida e dovrei partire ora, a brevissimo, quindi per tornare laggiù. Molti internazionali sono presenti questa battaglia, molti internazionali difendono questa rivoluzione. Il pensiero mi corre subito ai miei compagni italiani che adesso stanno cercando di indagare, ma nemmeno indagare, perché se li indagassero almeno avrebbero qualcosa di cui difendersi. Stanno semplicemente cercando di metterli sotto sorveglianza speciale. La compagna Eddie, Jacopo, Jack e Paolo, Davide, il loro unico crimine è stato quello di venire qua a difendere questa rivoluzione. Alcuni neanche combattendo, alcuni anche soltanto facendo giornalismo, lavorando nel civile o facendo entrambi. Il loro unico crimine è quello di saper usare un'arma, però anche questo sembra abbastanza assurdo, perché a quel punto dovremmo indagare veramente tanta gente. Sono convinto che sono venuti qui a combattere per la cosa giusta, a fare del bene qui, perché insomma la rivoluzione del Rojava non è solo la rivoluzione curda, è la rivoluzione di tutti i popoli del Rojava, gli assiri, gli yazidi, gli arabi, insomma qui il rispetto e la tolleranza è quello, sono l'ideale alla base di questa rivoluzione, insomma, quindi mi sembra profondamente ingiusto trattarli da terroristi. Non conto di tornare in Italia a breve, però ecco, anche se dovessi tornare non ho problemi a assumermi le mie responsabilità. Sono molto orgoglioso di quello che sto facendo e sono convinto di stare dalla parte giusta. E ora vedremo, perché comunque anche quando conquisteremo Marashida la mentalità di ISIS comunque sopravvive la mentalità feudale, patriarcale di ISIS. Non è soltanto presente nella loro organizzazione, qui i gruppi jihadisti sono molti, sono legati alla Turchia, sono a Idlib, sono a Afrin, insomma la battaglia è ancora lunga, c'è ancora molto lavoro da fare, però ecco appunto, siamo qui per questo. Fanculo il compleanno. Ogni giorno un pensiero vola verso te e ci ricorda di non abbattersi, di continuare a lottare. Continuiamo a sorridere, come facevi tu, nella merda di queste città e nella merda che è la guerra. Non tutti sanno che la tua battaglia è iniziata ben prima della Siria e che a modo nostro dimostravamo già di avere le nostre qualità, un cuore smisurato che ci ha sempre distinto da tanta gente che ha scelto una vita fredda, insensibile e dannatamente semplice. Ripensa a quelle ore passate con te, come quel periodo che vivemmo insieme a Torino. Andavate a lavorare, montavate i palchi per quegli eventi della grande industria dello spettacolo che tanto odiamo. Io vi aspettavo a casa, badavo a tutti quei cuccioli di macca, cercando di non impazzire con quei minuscoli terremotini. Quando rincasavate era una gioia, ci bevevamo qualche birretta e se non eravate troppo stravolti andavamo a giro per le vie di quella città, che alle volte sembrava comprenderci meglio della nostra Firenze. In quelle giornate imparai a conoscerti meglio, a comprendere la tua sensibilità, riconoscendola come mia. Già al tempo palesasti quell'amore che iniziavi a provare per Orso. Ogni tanto lo vedo, sta bene quel dodolone. Quell'amore che provavi per tutti noi. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Non si sa né dove né quando. E sarà un bellissimo giorno di sole. Ciao Orsetto. We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. E torniamo in regia, siamo all'incirca in chiusura, siamo anche un po' in ritardo, ci eravamo dati le 9 come orario di scadenza, ma come detto le cose da dire e da passare erano veramente tante. Ne approfittiamo, lascio il microfono a Xina che ci dà qualche informazione sulle varie assemblee che si occupano di Kurdistan a Firenze. Per continuare la lotta davvero, sono vari gruppi che se ne occupano, il primo fra tutti il coordinamento Toscana Kurdistan, lo trovate alla pagina Facebook del coordinamento, una realtà che si chiama Rise Up for Rojava, anche questa trovate alla pagina Facebook e sul canale Telegram. Ricordo adesso in questo momento non purtroppo tutte le assemblee sono bloccate, ma vi invito a seguire sulle pagine gli aggiornamenti per i prossimi eventi. C'è una campagna di boicottaggio in atto, boicottaggio della Turchia, per cui abbiamo presentato proprio qui ai microfoni di Radio Wombat un opuscolo per boicottare la Turchia e continuare la lotta anche di Lorenzo. Ricordo che è attiva una campagna di raccolta fondi che trovate online sul sito di produzionidalbasso.com, Lorenzo Orso Tecosher per continuare la lotta. Oggi è stata chiamata una raccolta fondi per l'acquisto di un acrografo, tutti i fondi saranno devoluti a Wikiollus per finanziare il progetto di acquisto promosso dalla staffetta sanitaria per il Rojava. We'll be right back. Allora, davvero siamo in chiusura, abbiamo ancora un contributo del coordinamento toscano per il Kurdistan e passeremo ancora una canzone richiesta da un ascoltatore, Pioggia. E infine, così come abbiamo aperto, chiuderemo con la canzone di Grippo dedicata ad Urso, riguardo al boicottaggio della Turchia, alla Xina, appunto. Nominava una trasmissione, quello della Trapunta, la Trapunta numero 12. Trovate il podcast con i dettagli del boicottaggio e vi ringraziamo per aver seguito Radio Wombat. Vi ricordiamo che è una radio autogestita e che quindi siete tutti e tutte benvenute, naturalmente, e specialmente insomma in questi giorni non ci possiamo incontrare, ma sicuramente possiamo passare i contributi che ci vengono mandati da casa. Ricordiamo che la diretta di oggi è la diretta speciale per Orso, ma Radio Wombat ha modificato il palinsesto, ha inserito 2 ore di diretta ogni giorno dalle 19 alle 21 per smorzare un po' questi tempi bui. Questa diretta speciale che state ascoltando andrà inoltre in replica domani mattina alle 7:30 e a mezzogiorno e mezzo. Non rimane altro che salutarsi e che dire a prestissimo. A presto! Inizia da una fine, fammi un fischio goccia. Che non c'ho forza nei momenti lunghi in cui mi prendi a pugni. Tu giungi quando meno me lo aspetto, mi levi il calore e l'ardore perfetto. Lo vedi che resto senza una risorsa e senza che si possa dare una scossa all'intelletto. Segno tue mosse per tenermi a letto. Ma non c'è verso, non c'è verso che non trasudi passione. Che se perdo, ma ci ho messo tutto il cuore, comunque perfetto. Pioggia scende su di me. Quando l'anima è rotta e pioggia, pioggia scende su di me. 18 marzo 2019, 18 marzo 2020, un giorno che resta e resterà scolpito nella memoria personale e collettiva, un giorno che resterà impresso nella storia di Firenze, la nostra città e di chi ovunque ha a cuore la libertà e la lotta per la sua conquista. Non c'è niente di più lontano nella retorica che credere fortemente che sia così, perché ciò che ci lascia Orso, Lorenzo e Walter Koscher ci rimbalza in testa, nel petto, negli occhi, con gli stessi brividi di un anno fa. Qualcuno di noi Lorenzo l'aveva conosciuto negli anni, per le strade di Firenze o fra le cucine dei ristoranti della città, altri nelle serate hip hop, nelle feste clandestine, alcuni ci avevano pure discusso sulla porta del centro popolare. Altri invece lo hanno conosciuto come ragazzo partito un anno prima da Rifredi per unirsi ai combattenti e alle combattenti Iepe Gay e Iepe G, e hanno sentito la sua voce per la prima volta negli audio video che decideva di inviarci, o leggendo i suoi racconti, oltretutto mozzafiato, nella crudezza di ciò che raccontava e nell'emozione della semplicità con le quali parlava, o grazie ai racconti dei suoi compagni internazionalisti, irlandesi, francesi, scozzesi, che passarono dal CPA per incontri e iniziative. Lorenzo, figlio, amico, collega di lavoro, fratello di Q, ma per la sua scelta è diventato molto di più di tutto questo. Con la sua scelta maturata e consapevole di lasciare Firenze, i suoi affetti, le sue sicurezze, cambiare radicalmente vita, Lorenzo aveva scelto di rischiare tutto per combattere in prima linea, a migliaia di chilometri da casa, una lotta, armi in pugno, che investe tutti gli aspetti della vita, che trasforma e ribalta i rapporti fra le persone, fra i generi, i modi di pensare, che libera i legami di dominio fra le etnie, il dominio di genere, il dominio di classe. Una rivoluzione che in quanto tale è rischiosa, scomoda, attaccata da molti nemici, in ogni dove, e che va difesa. Con coraggio, quel coraggio che Orso dimostrava di avere in ogni azione, che lo portava a partire per il fronte ogni volta che arrivava la voce che vi era un battaglione in partenza e che lo ha reso celebre persino fra i suoi stessi compagni e compagne di lotta, che lo ha portato ad essere in prima linea fino all'ultimo giorno. E a cadere a due giorni dalla cacciata militare dell'ISIS dal suolo siriano. La lotta comune, la solidarietà, intesa come responsabilità nella difficile messa in discussione di ogni privilegio, intesa come legame con chiunque stia lottando per libertà in una trincea, in Rojava, o sulle montagne curde, o nelle strade cilene, o nelle carceri italiane, intesa come condivisione nella bellezza della lotta e del dolore per le perdite subite. Sentirsi ancora parte di una storia comune, difficile più che mai, ma mai interrotta, di resistenza. L'urgenza di costruire legami e relazioni capaci di contribuire alla liberazione e all'emancipazione. Questo un anno fa ci ha ricordato Lorenzo col suo sacrificio. È tutto questo che vogliamo ricordare. A distanza di mesi ci resta la consapevolezza che anche la memoria è strumento di lotta, non solo per noi, ma anche per tutti quelli che verranno. La memoria è l'antidoto all'oblio e all'ipocrisia di chissà che con Orso non aveva proprio niente a che spartire, politicanti, giornalisti e ben pensanti vari. Pensare che proprio ieri Eddie, una giovane compagna italiana che come Lorenzo era partito per il Medio Oriente, abbracciando la rivoluzione socialista, femminista ed ecologista del Rojava, è stata condannata a 2 anni di stretta sorveglianza speciale in quanto socialmente pericolosa. Questa misura del codice penale fascista, che restringe le fondamentali libertà personali, chiarisce ancora una volta quali siano le parti in causa. Chi lotta contro l'ISIS e chi vende armi allo Stato turco, chi viene perseguitato per aver rischiato la vita contro la barbarie jihadista e chi, armando i carnefici dei combattenti per la libertà, ordina persecuzioni politiche. Il provvedimento contro Eddie ci ricorda che come la lotta di Lorenzo, le sue idee, la sua scelta sia tutto ciò che dobbiamo continuare a percorrere, anche e soprattutto ripartendo da qua, dai nostri quartieri, dove viviamo e lavoriamo e nelle nostre relazioni. Deve rimanerci la responsabilità della scelta come impegno morale. Ognuno di noi deve dare qualcosa, ognuno di noi ha il dovere di scegliere qual è la sua parte, il suo impegno, consapevoli che anche qua c'è un prezzo da pagare. Orso ci ha insegnato a combattere la rassegnazione, la frustrazione, la rabbia. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza mai, neppure un attimo. Questo era Lorenzo. Il futuro non è già scritto, cambiare si può, partendo da noi stessi, e Orso vivrà se continuiamo a lottare. Nel ricordo di Lorenzo, alla lotta, accanto ad Eddie e a tutte e a tutte.